Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro. Ragazzi gay e equilibrio affettivo. Questo post è costruito esclusivamente sulla base dell'esperienza maturata in progetto gay. Si tratta di un punto di vista oggettivamente limitato che si concentra soprattutto su ragazzi gay non dichiarati. L'età media di questi ragazzi è intorno ai 26 anni, partendo dai 16-17 per arrivare fino ai 40 e oltre. L'oggetto dell'indagine è il benessere individuale. Cerchiamo, cioè, di capire che cosa può oggettivamente contribuire al benessere individuale e quali sono i fattori che a questo fine hanno maggior peso. Ancora oggi, anche se in misura minore rispetto al passato, la consapevolezza di essere gay non è traumatica di per sé, ma perché ipotizza che essere gay comporti una condizione di separazione sostanziale, anche se non sempre di esclusione oggettiva, dall'ambiente familiare e sociale. In altre parole, un ragazzo gay si sente fuori dall'ambiente della famiglia e del gruppo dei pari. Da qui deriva l'importanza che si annette al coming out, che si presume essere la chiave di volta per un pieno inserimento nell'ambiente sociale e familiare di un ragazzo in quanto gay. Un ragazzo gay si autocolpevolizza del fatto di non dichiararsi con i suoi genitori e con i suoi amici e individua le cause della marginalizzazione nella poca chiarezza che ha usato nei confronti degli amici della famiglia. Il non dichiararsi, specialmente in contesti che spingono verso il coming out, è vissuto con sensi di colpa, come una forma di inganno perpetrato ai danni di familiari e di amici. Alla base di questo discorso c'è un postulato che spesso, alla prova dei fatti, si dimostra completamente sbagliato. Si assume cioè che la famiglia e gli amici siano all'altezza di capire e di accettare in modo autentico la situazione. In ambienti assolutamente impreparati, il coming out può creare situazioni di disagio ancora più marcato, perché la reazione non è un palese rifiuto, ma un rifiuto mascherato, accompagnato spesso da parte dei genitori da sensi di colpa per non essere stati in grado di crescere, virgolato, bene il figlio. La punizione per questa presunta colpa consiste nel doversi tenere il figlio così com'è e nel cercare di volergli bene, virgolato, nonostante tutto. Atteggiamenti simili per i ragazzi che hanno fatto coming out in famiglia si rivelano distruttivi, molto più del senso di generica solitudine e di non inserimento precedente il coming out. Anche con gli amici, salvo rarissime eccezioni, si arriva presto alla consapevolezza che il coming out non porta a una vera integrazione, ma a una integrazione in quanto gay, cioè il cartellino identificativo marca oggettivamente una differenza incolmabile. Dopo il coming out, spesso, la situazione diventa peggiore di prima e la sensazione di marginalità e di solitudine si acuisce. Superata la fase della ricerca dell'integrazione familiare e sociale, comincia la ricerca delle soluzioni orientate sulla realtà gay. Ci si rende conto che con altri ragazzi gay è possibile un dialogo di un altro livello, ma spesso l'idea di un dialogo più diretto e immediato si sovrappone alla ricerca a sfondo sessuale. Bisogna fare ogni sforzo per rappresentare le cose in termini realistici, cercando di evitare le mistiche dell'affettività gay. Intendo dire che non solo la ricerca a fini sessuali non deve essere sottovalutata, ma che ci si deve rendere conto che si tratta di un elemento fondamentale per la crescita e per la stabilità emotiva di qualunque persona. La sovrapposizione e l'integrazione della ricerca affettiva e della ricerca sessuale non ha nulla di patologico, e ci si dovrebbe stupire semmai dell'eccesso di sublimazione per un verso e dell'eccesso di aridità affettiva per l'altro. Per un ragazzo gay, come per qualunque ragazzo, la sessualità ha un ruolo fondamentale, che va capito e valorizzato. Nell'ambito della sessualità, data la difficoltà per un ragazzo gay di trovare la disponibilità sessuale di un altro ragazzo, la masturbazione assume un significato particolarmente importante, specialmente quando risulta di fatto impossibile qualunque esperienza sessuale di coppia. Anche la pornografia, quando non crea vere forme di dipendenza, non andrebbe demonizzata. La scoperta della pornografia online è in genere molto anticipata e avviene spesso in un periodo concomitante con quello della scoperta della masturbazione. I primi contatti con la pornografia dei preadolescenti sono frenetici, la pornografia diventa in pratica, in molti casi, una realtà che domina per un po' tutto l'orizzonte della sessualità, ma nella tarda adolescenza maturano delle esigenze di carattere affettivo che gradualmente portano a una certa svalutazione della pornografia e anche la masturbazione assume una dimensione più tipicamente affettiva, cioè è considerata come parte di un rapporto d'amore. È un fatto che i ragazzi, in particolare i ragazzi gay, sono molto selettivi nell'uso della pornografia. Cercano video che abbiano per protagonisti ragazzi di pochi e specifici tipi fisici e soprattutto che concretizzino situazioni che si desidererebbe vivere nella realtà. Di fatto la masturbazione con fantasie legate ad esperienze realmente vissute risulta molto più coinvolgente di quella legata alla pornografia, proprio perché ha una radice nel vissuto concreto. Mentre la masturbazione conserva nel tempo il ruolo fondamentale che ha avuto fin dall'inizio, la pornografia tende a perdere di importanza col passare degli anni. In una buona percentuale di casi, certamente non marginale, si passa alla fase delle chat erotiche e dei siti di incontri. E qui si verifica un fenomeno analogo a quello che si realizza al momento della scoperta della pornografia. Ci si rende conto che fare sesso in cam con sconosciuti è facile, oltre che non rischioso in termini di prevenzione delle malattie. Comincia quindi una fase di ricerca frenetica di contatti sessuali virtuali. All'inizio la cosa è molto coinvolgente, anche se spesso accompagnata da sensi di colpa, poi, col passare del tempo, ci si rende conto che a tutto questo manca qualcosa, che viene identificato con la presenza fisica dell'altro, ne consegue il salto verso i siti di incontri, cosa oggettivamente molto più rischiosa sia a livello di pericoli di tipo sociale che a livello di prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse. Ma anche gli incontri combinati nei siti, salvo rarissime eccezioni, risultano insoddisfacenti e se ne individua spesso la ragione nel fatto che l'altro non è esattamente quello che si andava cercando. Così si passa a una nuova esperienza e poi a un'altra ancora e così via. I siti di incontro rischiano di essere la stazione d'arrivo per molte persone. In parecchi casi, però, ci si chiede che cosa manca in tutto questo e si arriva finalmente alla risposta corretta. Manca una dimensione affettiva vera. In che cosa si concretizza una relazione affettiva vera? La risposta va cercata tenendo presente la comune sovrapposizione di due concetti, sesso e amore, che spesso allontana da una concezione diversa dell'affettività. Intendo dire che l'affettività può certamente essere sessualizzata, ma in molti casi si presenta ed è oggettivamente del tutto indipendente dalla sessualità. Un rapporto genuinamente affettivo nasce in modo totalmente spontaneo e soprattutto non è condizionato da nulla. Esiste, se esiste, solo per forza propria, al di là e spesso contro qualsiasi meccanismo di controllo. È molto comune la visione economicistica dell'affettività. Equilibrio di dare e di avere, investimento affettivo, convenienza, fallimento affettivo, sono tutte espressioni derivate dal mondo dell'economia. In fondo, i modelli di tipo economicistico dominano in molti settori ed è quasi automatico applicarli anche alla vita affettiva, di qui l'idea di matrimonio e in generale di rapporto affettivo come contratto, in cui ci si vincola ad uno scambio di prestazioni e si offrono determinate garanzie, e anche l'idea di rapporto affettivo come possesso dell'altro. In realtà, la lettura economicistica dell'affettività è la causa del fallimento di molti matrimoni e di moltissime relazioni di coppia. L'affettività non è totalmente e neppure essenzialmente legata alla vita di coppia. Si tratta di un concetto molto più debole, ossia molto meno vincolistico e contrattualizzabile, ma nello stesso tempo molto più diffuso e pervasivo. L'affettività è la base della relazionalità umana profonda, cioè spontanea, e risponde a meccanismi ancestrali volti alla gratificazione reciproca e alla creazione di rapporti deboli ma duraturi sui quali si fonda l'equilibrio dei singoli individui. L'affettività tende ad essere una forza aggregativa, debole sì ma stabile, in quanto indipendente da fattori esterni ed in gran parte anche dalle risposte comportamentali dell'altro. In questo si identifica la gratuità della dimensione affettiva che dà senza chiedere, anche se non è rivolta a tutti, ma a un numero abbastanza ridotto di individui che si percepiscono come emotivamente affini. L'affettività non interviene nei confronti di persone che sono avvertite come un potenziale pericolo per la loro imprevedibilità, ma solo quando il comportamento dell'altro è in qualche modo prevedibile e lo si giudica onesto, cioè guidato solo da categorie affettive e non da altri fini. L'affettività entra in gioco quando c'è il riconoscimento di un'affinità di base nei meccanismi di reazione spontanea. Laddove si avverte qualcosa di dissonante, cioè di estraneo, di non comprensibile, l'affettività non interviene e i meccanismi comunicativi inconsci e subliminali non funzionano. Dove invece interviene l'affettività, la maggior parte della comunicazione non ha bisogno di verbalizzazioni o di concettualizzazioni astratte e ci si capisce essenzialmente attraverso una comunicazione subliminale facilmente decifrata perché il codice comunicativo dell'altro è sostanzialmente lo stesso. La dimensione affettiva crea una forma di comunione-comunicazione per la quale vengono meno gli schemi difensivi e l'apprendimento di comportamenti, di modi di fare, di modi di dire, di atteggiamenti fisici dell'altro è decisamente facilitato. Ma tutto questo resta a livello subliminale. La relazione tipicamente affettiva è l'amicizia. Si tratta di una relazione interpersonale, fondamentale e spontanea, che non crea vincoli, ma è capace di fare svanire la sensazione di marginalità e di non inserimento che tanti ragazzi gay provano. Purtroppo le amicizie si confondono spesso con una specie di tecnica per il soddisfacimento di altre esigenze. Il termine scopo amico ne è un segno evidente. In questo modo l'amicizia viene subordinata ad altro e perde il suo carattere essenziale di assoluta gratuità. Non è comunque detto che l'intervento della sessualità in un rapporto di amicizia sia sempre distruttivo, e non sono pochi i rapporti di amicizia che non si perdono comunque dopo che i due partner hanno seguito itinerari divergenti per la loro sessualità. Tuttavia, se la cosiddetta amicizia era esclusivamente strumentale a fini sessuali, quando finisce il rapporto sessuale, il rapporto di amicizia evidenzia tutta la sua inconsistenza e svanisce in termini piuttosto brevi. L'amicizia non vincola, ma apre una via di comunicazione tra persone che si percepiscono affini. Naturalmente l'affinità può essere di vario grado. Se tale affinità è veramente profonda, l'amicizia è veramente salda. In questo senso l'orientamento sessuale ha un ruolo molto importante, perché l'affinità del vissuto è un elemento fondamentale. Un gay usa un codice di comunicazione che non coincide con quello usato dagli etero. I messaggi sono diversi e più criptici, conta più il non detto del detto, ma un codice del genere per un altro gay e soprattutto per un altro gay affine risulta invece facilmente comprensibile. E il discorso si sviluppa in profondità anche in assenza di molte parole. L'equilibrio affettivo è uno stato psicofisico di benessere che dà la percezione di essere inseriti in una rete di protezione e di non essere più soli. Questa rete di protezione non è un vincolo e soprattutto non dipende da alcuna altra condizione che non sia l'essere se stessi e scatta solo quando se ne avverte realmente la necessità. La certezza dell'esistenza di questa rete di protezione deriva dal fatto che la presenza dell'altro non si perde. Può mancare per un periodo, ma non è nel progetto di nessuno dei due partner che debba interrompersi. Si tratta di rapporti non necessariamente costanti e spesso sospesi, ma comunque reali perché riacquistano la loro concretezza ogni qualvolta se ne presenti la necessità. Bastano poche parole, un sorriso, la disponibilità che non viene meno, la percezione dell'attenzione dell'altro per garantire che il rapporto di amicizia non si è spezzato. La costruzione di veri rapporti di amicizia con altri ragazzi gay risulta essere la chiave di volta del benessere individuale. Quando una relazione di coppia va in crisi, si prova una brutta sensazione di delusione e di abbandono. Ma se la rete di protezione costituita dalle amicizie funziona effettivamente, cioè se si tratta di amicizie vere, la crisi si supera e non è di per sé distruttiva. Ben diverso sarebbe invece sentirsi privati in un momento di tutti i rapporti affettivi, perdere tutte le amicizie e dover ricominciare tutto da zero. Un trauma del genere sarebbe effettivamente distruttivo e comprometterebbe in modo pesantissimo la stabilità emotiva di un individuo. Non ci sono affinità formali di nessun genere che possano costituire legami profondi come quelli spontanei emergenti dall'affettività. Per essere amici non basta certo essere entrambi gay o avere in comune una idealità politica o un credo religioso. Non esiste associazionismo che possa sostituire i rapporti affettivi che hanno un loro perché e un loro meccanismo che non è assimilabile a nessun altro. Concludo con una ultima ma fondamentale osservazione. I rapporti affettivi veri, quelli che creano un contatto profondo tra le persone, sono sempre reciproci. Non sono il risultato di un atto di volontà e meno che mai di un atto di volontà individuale. La mancanza di reciprocità non è un difetto del rapporto, ma è una spia della sua inesistenza. Ma la reciprocità non è reciprocità di comportamenti, ma reciprocità di disposizioni affettive, è mutuo interesse, mutuo rispetto e percepire l'altro come un proprio pari. Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica.